Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera vi parliamo di due libri, forse un po' diversi l'uno dall'altro, ma che hanno in fondo un fine comune, quello di razionalizzare un po' le cose e di rendere questa società migliore. Parliamo un po' del sistema globale con Enrico Grazzini. Buonasera, Grazzini. Enrico Grazzini ha scritto il libro Il bene di tutti, l'economia della condivisione per uscire dalla crisi. E abbiamo con noi anche Giuseppe Castronovo. Buonasera, Castronovo. Buonasera. Che ha scritto il libro L'accorpamento dei piccoli comuni. Un problema molto particolare, molto italiano, anche se nelle altre nazioni si sta attuando, che in Italia, di cui in Italia si discute, ma si fa molto poco. L'accorpamento dei piccoli comuni. Ne parleremo tra poco. Iniziamo dal bene di tutti con Enrico Grazzini. Perché questo titolo, Il bene di tutti, l'economia della condivisione per uscire dalla crisi? Questo libro è focalizzato su un fatto, sulle teorie del premio Nobel Elinor Ostrom, che sostanzialmente ha scoperto una novità, cioè ha scoperto il fatto che esiste una proprietà condivisa, esistono dei beni comuni che possono essere gestiti appunto dalle comunità, per esempio dalle comunità organizzate in fondazioni, in enti no profit, in cooperative, e che alcuni di questi beni, come per esempio tipicamente internet, come Wikipedia, come il free software, non possono essere gestiti in maniera ottimale né dai privati né dallo Stato né tantomeno dal pubblico. Ecco, quindi si tratta in pratica di trovare un quarto settore, il privato da una parte, il pubblico dall'altra, il terzo settore, il non profit, il volontariato, e un quarto settore che si occupi dei beni naturali, le risorse, le reti di comunicazione, l'acqua e così via, Grazzini? Che potrebbero gestire questi beni, così come internet, ripeto, Wikipedia, gestiscono le comunità, gestiscono questi beni comuni e quindi per uscire dalla crisi non è possibile ricorrere solo allo sviluppo e al rilancio del mercato o solo all'iniziativa pubblica o al salvataggio dei settori disastrati da parte dello Stato. È necessario rilanciare questa economia dei beni comuni, che tra l'altro comprende beni essenziali come le conoscenze, come le scienze, come l'informazione, come la comunicazione, e fare in modo che si sviluppi questo settore gestito da enti no profit, che poi possano sviluppare un mercato concorrenziale uguale per tutti, alla pari, no? Ecco, ma ci vorrebbe un intervento dello Stato che sottragga questi beni dai privati, dal mercato, e che possa portare appunto a una gestione da parte di comunità. Quindi ci vorrebbe qualche cosa di autoritario, ci vuole un passaggio spontaneo, solo culturale, per arrivare a questa dimensione di società. Indubbiamente lei ha perfettamente ragione, ci vuole un passaggio da una parte spontaneo culturale, perché le comunità devono essere in grado, come dire, di gestire dei beni complessi come per esempio le conoscenze, internet, l'ambiente, l'ecologia. Dall'altra parte ci vuole un intervento anche giuridico, una promozione da parte dello Stato. La stessa Elinor Ostrom, che ha vinto il premio Nobel dell'economia proprio su questi argomenti, tra le condizioni primarie per poter procedere all'economia della condivisione pone il fatto che questa venga legittimata anche giuridicamente dallo Stato, e quindi i beni condivisi vengano riconosciuti e legittimati dagli altri settori, quindi dal settore privato e dal settore pubblico, e quindi abbiano un loro spazio, una loro autonomia. Ecco, comunque è importante anche un processo, diciamo così, culturale per portare una maggiore responsabilità di tutti verso la gestione di questi beni. Le comunità devono essere comunità mature, perché per gestire dall'acqua all'ambiente, alle risorse ambientali, a internet, a Wikipedia, ci vogliono delle comunità mature. Per fortuna nelle società avanzate, nelle economie della conoscenza, il settore prevalente di lavoratori è composto dai knowledge worker, cioè da lavoratori della conoscenza con medi e alti livelli di istruzione, persone che sono abituati, diciamo così, anche per professione, per lavoro, a gestire dei beni complessi, e quindi nell'economia avanzata la gestione tramite enti no profit controllati dalle comunità dei beni comuni è del tutto possibile. Oramai, come dire, abbiamo la maggioranza dei giovani, la grande maggioranza dei giovani diplomati e laureati, quindi abbiamo un serbatoio di competenze che ci permette di gestire questi beni comuni in maniera razionale, in maniera tale, per esempio, da difendere l'ambiente per le future generazioni, da sviluppare questi beni ed eventualmente anche da metterli sul mercato. L'esempio di Internet è illuminante. Internet è un bene comune che però permette l'innovazione, permette la competizione, permette l'e-commerce, permette l'offerta di servizi remunerativi, e quindi bene comune e mercato possono benissimo essere sinergici. Ecco, grazie Grazini, torniamo tra poco a parlare del bene di tutti, facciamo un'incursione sul tema dei piccoli comuni con Giuseppe Castronovo, che ha scritto per Rubettino l'accorpamento dei piccoli comuni. Ecco, quanti sono i comuni italiani, Castronovo? All'ultimo censimento del 2001 sono 8.101. E di questi sono piccoli? 4.600 non superano i 3.000 abitanti. Quindi hanno problemi di gestione, parlavamo prima di gestione, e quindi per piccoli comuni ci sono anche comuni di poche decine di abitanti. Il problema, mi permetta, non è solamente di gestione, è anche di democrazia. Perché quando un comune di 50 abitanti o anche di 100 abitanti deve eleggere i propri rappresentanti, nel momento in cui consideriamo il fatto che da 0 a 18 anni non votano, non rimane neanche un numero sufficiente per eleggere democraticamente due liste, perché non c'è democrazia se non c'è una maggioranza e non c'è una minoranza. Lei comprende che il comune di Morterone, con 33 abitanti, togliendo da 0 a 18 anni e togliendo, non voglio offendere nessuno, ma da 80 anni, 90 anni in su, ovviamente non si dedicano più alla vita pubblica per motivi ovvi, quindi non c'è neanche il materiale umano per dar vita alle rappresentanze democratiche che devono gestire il bene comune. E come mai questi comuni esistono ancora? Perché non si è avviato in Italia un processo di accorpamento, come dice il titolo del suo libro? Ecco, il sottotitolo secondo me è significativo. Il sottotitolo del libro dice mancanza di volontà politica. Il discorso è questo. I comuni, così come oggi noi li abbiamo, sono l'eredità degli stati preunitari. Ora, parlare di comuni di 100 abitanti nel 1500, nel 1800, poteva avere un significato. Nel senso che nel 1800 non c'erano le strade, non c'erano i telefoni, non c'era la luce, i collegamenti erano difficili. Ma nel 2010, nel 2011, sembra possibile che non bisogna sfruttare nell'organizzare la pubblica amministrazione le risorse di cui disponiamo? Oggi sarebbe possibile, accorpando i comuni, così come propongo io non chiudo il municipio, nel senso che il cittadino deve sapere, e la legge lo prevede, che nel momento in cui due comuni si accorpassero, il municipio, per gli uffici cosiddetti di base, cioè l'ufficio che è al contatto diretto con il cittadino, quell'ufficio non viene chiuso, cioè l'anagrafe, lo stato civile. Ma parlare di bilancio in un comune di 33 abitanti, con un revisore dei conti che io devo pagare secondo tariffe di legge, io non ho nulla contro il revisore dei conti, sono anch'io un revisore dei conti, però voglio dire, un comune di 33 abitanti che deve predisporre un bilancio su un medesimo modello del bilancio di Milano, ovviamente le cifre sono molto diverse, alcune voci sono zero, però voi capite che c'è qualcosa che non quadra. Perché ci sono questi comuni? Nel momento in cui fu unificata l'Italia, la politica di allora, poiché aveva paura che dare dei poteri ai comuni, specialmente quelli grandi, poteva significare far rivivere il desiderio di autonomia, ecco che il legislatore, tra l'altro, questo fu un errore, ha disciplinato allo stesso modo il comune di Milano con il comune di Morterone. Ecco, ma in questi piccoli comuni non ci può essere un movimento per chiedere appunto l'integrazione con altri? Tutti sono gelosi della propria autonomia? Ecco, la gelosia della propria autonomia è al primo posto, Però non è casuale che io nell'ultimo capitolo del libro trovo, credo di trovare una soluzione in modo tale che non sopprimo il rispetto della, come dire, della vita originaria della collettività. Io propongo, ad esempio, che qualora due comuni si unificassero, le elezioni non debbano avvenire unitariamente, perché potremmo correre il rischio che un comune più grande potesse, diciamo, fagocitare il comune, certo, più piccolo. Allora io propongo che le elezioni avvengano separatamente, un po' qualcosa di simile come avviene con le province di Trento e Bolzano. Quindi fare un percorso graduale che rispetti le autonomie, che, come dice la conclusione, unire due piccole autonomie non vuol dire sopprimerle, ma farne una più grande, più efficiente, più al servizio dei cittadini. È un po' questa anche la prospettiva, forse vista dal basso, vista un po' in termini globali, anche di Enrico Grazzini, sul bene di tutti. Forse anche il bene di tutti può partire da piccoli gesti concreti, Grazzini. Non c'è dubbio, del resto, come dire, l'esperienza referendaria da questo punto di vista ha dimostrato che c'è stato un movimento, per esempio dal basso, in questo caso per l'acqua. Non, l'esperienza di internet ha dimostrato che è nata, come dire, da circoli di ricercatori universitari che hanno studiato nuove soluzioni aperte di rete. Quindi diciamo, l'economia dei beni comuni è l'economia civile che nasce dal basso, che nasce dalle comunità che a poco diventano comunità più grandi. Internet è diventato una comunità globale e quindi da questo punto di vista è questo proprio il contenuto, diciamo, della nuova economia, che, ripeto, dovrebbe essere policentrica. Da una parte il settore dei beni comuni, che sono centrali oramai, che sono le conoscenze, che sono l'ambiente, che sono internet, che sono Wikipedia, il free software, e quindi beni centrali, no? E dall'altra parte il mercato e l'intervento pubblico, ognuno nei suoi ambiti. Grazie mille, grazie Grazzini. Ricordiamo i libri di cui abbiamo parlato questa sera: Il bene di tutti, l'economia della condivisione per uscire dalla crisi, di Enrico Grazzini, editori riuniti, 368 pagine per 16 euro, e con Giuseppe Castronovo abbiamo parlato dell'accorpamento dei piccoli comuni, l'editore Rubettino, le pagine 178, gli euro 14 per acquistarlo. Ringrazio chi è stato con noi, ringrazio Filippo Reggi in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata a tutti.